annunciato il 7 novembre con l'ICA di Londra. Insomma, diciamo, sono o musei d'arte contemporanea o luoghi di attivismo, università, cioè luoghi che non sono cinema ma che hanno una, come dire, una programmazione cinematografica, sì, di tutto, sì, rispetto. Senti, e per saperne di più, per seguire anche le sue tappe, ci sono dei riferimenti web? Sì, dunque c'è comunismofuturo.net, che è un piccolo blog che teniamo, con, in cui cerchiamo di aggiornarlo il più possibile con i tempi e, insomma, e come possiamo, le date nuove, le proiezioni, ecco. Bene, allora ricordiamo Comunismo Futuro. Andrea, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Andrea Groplero, regista del documentario Comunismo Futuro, in programmazione a Napoli, all'asilo, venerdì 21 dicembre, alla presenza dell'autore. Con Massimo Danolfi e Martina Parenti per parlare del loro film Blu, che sarà in programmazione a Milano al Museo Interattivo del Cinema dal 21 al 23 dicembre. Ben trovati. Ben trovati voi. Ce lo presentate? Allora, Blu è un cortometraggio di 20 minuti che racconta i lavori sotterranei nei tunnel, nelle gallerie della nuova metropolitana milanese. Si chiama Blu perché è un bel titolo, che però in realtà è un titolo molto concreto, perché è il nome della nuova linea del metro in costruzione. Si potrebbe definire un nuovo capitolo del vostro viaggio nei luoghi che sono opera umana? Beh, sì, certo, non so come dire, i nostri tarli sono sempre gli stessi. È un racconto di un processo di lavoro, però in una chiave così molto un po' noir, perché così è un inizio molto... Volevamo fare un film sulla notte, un film, esatto, che parte con un turno lavorativo degli operai, un turno notturno, che scendono sottoterra e vengono liberati dal sottosuolo soltanto tanto quando crolla la paratia della metropolitana. In fondo c'è anche un lieto fine, ecco. Il progetto com'era nato? Noi abitiamo a Milano, siamo circondati ovviamente dai cantieri della metropolitana, e quindi è nato guardandosi intorno e unendo, diciamo, questa osservazione di ciò che ci circonda a questo desiderio che avevamo, appunto, di realizzare un film interamente girato di notte. Questa è stata la scintilla iniziale. E come mai un notturno e noir? Ma insomma, vabbè, notturno e noir vanno facilmente. L'aspetto, vabbè, del lavoro è abbastanza interessante, perché loro vivono di fatto al campo base, che è una città nella città, insomma, un villaggio collocato all'interno della città, ma in qualche modo ne fa parte, ma nello stesso tempo è anche invisibile agli occhi di più, perché è collocato appunto all'inizio di questo grande viale che porta verso l'aeroporto, stato tirato su in poco tempo, e appunto un migliaio di persone attualmente lo popolano, lì dorme, mangiano, spesso sono persone ovviamente che non hanno la propria residenza qui a Milano, i lavoratori sono al 95% del centro-sud dell'Italia, con l'altro 5-10% di stranieri. Questa è la composizione, e per questo mondo, insomma, questa città è una città che vive 24 ore al giorno, ma spesso appunto la notte, le prime del mattino, insomma, si avvia verso i cantieri, e nel caso nostro, insomma, scende sottoterra e ne riemerge, diciamo, a fine turno. Quindi la chiave, quella, diciamo, del noir, è stata una chiave per iniziare il film. Infatti sembra un po' un porto delle nebbie, insomma, nelle sue prime scene. Da questo vostro ennesimo viaggio, che impressioni avete ricavato? Cioè, ma in realtà forse la considerazione quella più interessante è stata proprio quella proprio del grande cambio, nel senso che il film magari inizialmente potrebbe ricordare appunto i grandi film sul lavoro come Metropolis, però in realtà è avvenuto un grande passaggio che è quello appunto della totale inversione dei rapporti di forza. Attualmente è l'uomo che, come dire, prosegue le lavorazioni che la macchina non riesce a fare, quindi diciamo è subordinato, il lavoro umano è subordinato a quello della macchina. Quindi diciamo, noi aspettavamo un lavoro fortemente meccanizzato, ma abbiamo fatto questa scoperta, cioè che alcune lavorazioni vengono portate a compimento dall'uomo. Evidentemente la macchina fa moltissimo, però appunto la figura, che è la figura umana, che è una figura subordinato al macchinario, e questa TBM che scava la galleria e interviene appunto per completare le azioni mancanti della parte, diciamo, meccanica. Forse è la cosa che più ci ha colpito. Come mai questo formato da poco più di 20 minuti? Ma noi non è che abbiamo, come dire, ogni film, insomma, merita, ogni film si ama la sua durata. E dato così il racconto, che è un racconto abbastanza diretto, lui ha un racconto molto diretto, inizia, parte un po' come una freccia, va a scoccare in un punto preciso. E 20 minuti ci sembrava la durata migliore per raccontare tutto quello che volevamo raccontare. Volevamo anche che fosse installato, avevamo pensato anche un'installazione oltre che a un cortometraggio, per cui insomma è un'installazione, non può essere un'installazione, almeno come ce l'eravamo immaginata noi, non poteva essere troppo lunga. Mm-hmm. È stata la combinazione di questi due desideri, un po' quello che si sono chiamate le immagini, un po' l'idea di installarlo, di raccontarlo come cortometraggio, ma perché mi piaceva l'idea che proprio gli operai che hanno dei turni di lavoro così stretti potessero vedere il film che li riguarda a qualunque ora lo desiderassero, qualunque turno facessero in quel momento. Poi la durata anche, in grosso modo è la durata del ciclo di messa in opera dei conici che formano l'anello. I sette conci della galleria formano un anello, grosso modo all'apice impiegano circa 20 minuti della durata del nostro film, e noi fondamentalmente raccontiamo quel processo lì. Dopo l'appuntamento al MIC, che tipo di circuitazione avete pensato? Allora, Blu ovviamente già sta girando per vari pezzi in Italia e all'estero, ora ha fatto a Milano questa giorni di proiezione al MIC, dove anche in qualche modo installato dall'11 dicembre insieme ai tagli di un filmato sulla costruzione della prima metropolitana milanese degli anni 50, e poi andrà in onda sui canali Rai, filmato dalla Rai, e poi continuerà la vita all'estero, insomma ci saranno dei lavori. Ecco, ora sta dicendo una cosa che non potevo dire, no? Che non è ancora ufficiale. Comunque sì, avrà una vita prevalentemente di festival e di passaggi e di occasioni come questa del chiaro che il nostro desiderio più profondo rispetto a questo film, come diceva prima Martina, era quello di farne una videoinstallazione. E forse riusciremo a farla, magari non qui in Italia, però riusciremo a farla, perché crediamo che questo film sia proprio ha il meglio di sé proprio in questa modalità qui, insomma, non una singola proiezione, ma una modalità diversa in cui si è un po' come se si entrasse all'interno del macchinario, quindi in una grandissima proiezione a un potenziale più forte, secondo noi. Ok, e allora ricordiamo la programmazione del documentario Blu a Milano, al Museo Interattivo del Cinema, dal 21 al 23 dicembre. Un saluto e un ringraziamento ai registi Massimo Danolfi e Martina Parenti. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie. Ciao.

Roma, e nell'anno, anche nel 2019, continueranno le tappe, si spererà anche di un approdo del nostro passo del cinema anche al nord Italia, dove comunque teniamo sempre delle nostre attività. Ad esempio, il 20 dicembre noi continuiamo anche con delle attività internazionali e per l'ottavo anno consecutivo organizzeremo un nostro evento a Los Angeles, all'Istituto di Cultura Italiano, insieme al Centro Nazionale di Cortometraggi di Torino, dove festeggeremo il giorno più breve dell'anno. Quindi sarà una giornata a Los Angeles di, abbiamo tutti l'immaginario della città del cinema per la zona nostra, e faremo la giornata più breve dell'anno con una serie di cortometraggi tra i più belli cortometraggi italiani nel mondo, e quindi sarà anche una festa internazionale. Quindi il Social World Film Festival ce l'ha proprio nel nome, nel titolo, questa vocazione internazionale, non solo in tutte le attività, come anche il Cinebus, ci sono opere che provengono da tutto il mondo, e quando dico tutto il mondo sono dall'Arabia Saudita, dal Brasile, dal Canada, UK, Stati Uniti, Israele, e anche al Cinebus sarà l'opportunità di vedere opere da tutto il mondo, ma soprattutto perché le opere italiane vanno in tutto il mondo. E il Social World Film Festival ha organizzato in 9 anni di storia addirittura 40 eventi internazionali che vanno dall'Australia al Brasile, alla Corea, al Giappone. Sono tutti eventi organizzati insieme alle ambasciate italiane e agli istituti di cultura italiani nel mondo, e che hanno dato l'opportunità magari a opere più piccole di poter essere veicolate anche a un pubblico internazionale. Allora, ricordando che tutti gli eventi sono gratuiti, la seconda edizione del Cinebus, Festival Cinematografico on the Road, ricordiamo le prime 2 tappe: a Piazza dei Martiri a Napoli il 21 dicembre, Piazza del Popolo a Roma il 23 dicembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Giuseppe Alessio Nuzzo. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, grazie. Con Barbara Goretti, curatrice della rassegna Animazioni d'autore, a Roma Cinecittà dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Barbara, ben trovata. Buongiorno, buongiorno Enrico. Allora, raccontiamo cos'è questa rassegna. Animazioni d'autore è una rassegna su film d'animazione che, diciamo, Cinecittà si mostra, Istituto Luce Cinecittà, negli studi di Via Tuscolana, presentano da 2 anni, questa è la seconda edizione, è nata da un progetto educativo che proponeva degli appuntamenti singoli inizialmente, adesso diciamo, ha strutturato un programma più articolato e con un filo rosso che vuole presentare 12 giornate dedicate al film d'animazione, con una selezione di titoli molto particolare, nel senso con uno sguardo a lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi che hanno una caratteristica molto manuale, molto disegnativa, quindi un po' diversa dalla grafica computerizzata. Quanti sono i titoli? I titoli sono 12. Quindi uno per giornata? Sì, uno per giornata, sono i 12 giorni delle feste natalizie, quelli che tradizionalmente legavano il Natale con l'Epifania, quindi diciamo, è stato utile anche fare questo riferimento alla cadenza tradizionale del Natale, perché naturalmente poi il programma di proiezioni si accompagna anche con delle attività laboratoriali per bambini in particolare, mentre chiaramente i film sono per tutti, da 0 a 99, come ci piace sottolineare. Si tratta di ultime produzioni? Si tratta di diversi titoli. In realtà abbiamo 2 compleanni importanti, un 50° di Yellow Submarine, con un film del 68, con protagonisti Beatles per la regia di George Dunning, che appunto quest'anno festeggia il suo anniversario. Abbiamo i 25 anni di The Nightmare Before Christmas, che tutti ricorderanno, insomma, Tim Burton per la regia di Harry Selick. E poi però abbiamo anche titoli contemporanei, come ad esempio L'Isola dei Cani di Wes Anderson, tanto per citarne uno, oppure un'anteprima I racconti di Barbana, questo film d'animazione che uscirà prossimamente in primavera per la regia di Nora Tuomi, che racconta proprio la storia di questa bambina coraggiosa nella Kabul dei talebani, e quindi i nostri visitatori potranno scoprire una favola ma anche un'avventura molto molto avvincente, con un titolo che insomma è in anteprima per Cinecittà in questa data. Raccolgono vari tipi di animazione, dalla plastilina al cartone animato? Sì, assolutamente sì, abbiamo voluto fare una selezione anche di linguaggi, per cui abbiamo dal disegno a mano, diciamo dalla tradizione di Studio Ghibli, quindi con queste animazioni preziose, allo stop motion, e quindi appunto L'Isola dei Cani di Wes Anderson ha un making of pazzesco di modellini incredibili, fino anche a delle tecniche più tra virgolette antiche come il rodovetro per esempio Vito, mio fratello superuomo di Bruno Bozzetto, che chiude la rassegna il 6 gennaio. È un po' da tutti i paesi del mondo? Sì, in questo caso abbiamo voluto creare proprio una sorta di viaggio intorno al mondo, mentre l'edizione precedente era dedicata al cinema, all'animazione italiana in particolare. Quest'anno facciamo un po' un giro del mondo, dal Brasile agli Stati Uniti, al Canada, all'Irlanda, fino naturalmente anche all'Italia, alla Francia e alla Spagna. Inoltre ogni pellicola racconta un po' un piccolo mondo, per cui abbiamo quello di Arrietty, Il mondo segreto sotto il pavimento, che è la visione lillipuziana di un universo microcosmo. Abbiamo dei mondi opposti in Ernest e Celestine, che racconta questa storia di mondi antagonisti tra orsi e topi, di una convivenza possibile. Abbiamo questi mondi sospesi come quello di Arrugas, che in realtà affronta un tema complesso, cioè quello della perdita della memoria nel corso dell'età, quindi nella vecchiaia, fino al bambino che scopre il mondo, che è proprio lo sguardo dell'infanzia sull'universo, sul mondo, sulle sue difficoltà e sulle sue potenzialità. Quindi diciamo che i titoli sono diversi, alcuni sono più adatti anche ai più piccoli, ma in realtà tutti affrontano anche tematiche importanti con linguaggi anche complessi in alcuni casi. Allora, ricapitoliamo quali giorni della settimana, quali orari e quali luoghi. Tutti i giorni, dal 23 dicembre alle ore 15, la proiezione, tranne il 24 e il 25, il 1 gennaio, in cui la mostra è chiusa, perché ci riposiamo tutti, e tutto il giorno, in questi stessi giorni, sono attivi i laboratori. Quindi diciamo che si può passare un'intera giornata a Cinecittà si mostra e aspettare l'appuntamento delle 15 per vedere il film che si preferisce. I riferimenti internet per seguire la programmazione? www.cinecittasimostra.it. Benissimo, e allora ricordiamo l'appuntamento con Animazioni d'autore a Roma, Cinecittà, dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice della rassegna, Barbara Goretti. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie a voi, un saluto a tutti, ciao. Con Claudio Storani per parlare di Lazio a tutto schermo, che è partita il 12 novembre in 15 sale in 15 città. Claudio, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Eccomi. Allora, raccontiamo intanto quest'iniziativa a tutto schermo. Parlacene un po'. A tutto schermo è un'iniziativa che porta avanti, diciamo, il discorso della rete degli spettatori, che è quello di sostenere al tempo stesso i film italiani nelle sale cinematografiche, andando verso lo spettatore. Quindi in questi anni, in questi 6 anni, abbiamo nel Lazio creato una collaborazione con appunto la Regione Lazio e con il MIBAC, che ci sostiene in questa avventura autunnale fatta in 15 sale da 2 anni. Siamo in 15 sale